Parto da Bologna raccontando un po' quello che è successo negli ultimi giorni rispetto a una proposta che è stata costruita da LocalPal, un'associazione di piccoli host del bolognese, che appunto proponeva al sindaco Merola di eliminare di fatto la tassa di soggiorno per un certo lasso di tempo, proprio perché lamentavano il fatto appunto che ci fosse stato un calo significativo delle prenotazioni sui portali, insomma, che fossero poi di Airbnb, Booking, eccetera. Ma sono proposte che stanno spuntando in questo periodo un po' ovunque, un po' in tutte le grandi città, anche medie e piccole in realtà. Questo secondo me è significativo del fatto che da un lato questa emergenza coronavirus, che sicuramente è un'emergenza che va, insomma, trattata con tutte le accortezze del caso, sta provocando di fatto gravi danni economici, ma che sono causati appunto dall'impostazione economica di questo paese, del come in questi anni si è fatto in modo che il turismo prendesse una quota economica sempre maggiore e generasse introiti limitati e concentrati nelle mani di pochi. E il turismo, noi sappiamo che è un settore a bassa produttività, è un settore dietro cui si nasconde molto spesso lavoro sfruttato, lavoro nero, lavoro a cottimo, e che quindi appunto nei momenti come questi, momenti di emergenza sanitaria o di altri tipi di emergenza, lascia tante persone a casa, lascia tante persone senza lavoro, e questa economia improvvisata poi delle piattaforme turistiche capiamo come in qualche modo, insomma, non sia qualcosa di strutturale, non sia qualcosa che garantisce veramente alle persone di avere un reddito stabile. Ad esempio Sara Gainsforth, autrice di Airbnb Città Merce, che tu conosci bene, parlava anche di una sorta di illusione che veniva data ai piccoli host. Certo, ma esattamente questo è il punto. Cioè, noi sappiamo perfettamente che il vero problema che Airbnb rappresenta sta tanto nella sua tassazione, quindi nel suo essere una multinazionale con sede in Irlanda per le transazioni europee, ma anche nei grandi multiproprietari che di fatto mettono grandi stock di immobili sulle piattaforme. I piccoli proprietari, i piccoli host, in qualche modo provano a sfruttare questo tipo di mercato in mancanza poi anche di una serie di tutele di welfare, di lavoro, che in qualche modo esistono e che sono oggettivamente gravi. Quindi chi ha una casa, una seconda casa che magari gli viene lasciata in eredità, chi ha una stanza da mettere a disposizione, lo fa nella speranza di potersi ritagliare anche un lavoro da questo punto di vista, e quindi ci si improvvisa imprenditori. Noi crediamo che in qualche modo bisogna mettere dei limiti all'Airbnb per fare in modo che questi piccoli proprietari comunque possano continuare a fare questo tipo di operazione, sapendo che però il grosso investimento del paese deve essere sul welfare, sul lavoro, sulla tutela del lavoro, sulla qualità del lavoro anche. Quindi è un po' questo il punto. E a Bologna sappiamo che c'è un'enorme fetta di lavoro che è il lavoro povero, sebbene molto spesso vengono sbandierati dati sul tasso di occupazione molto alti, che però appunto lasciano presagire una situazione che poi è questa, che poi in situazione di emergenza viene fuori. In particolare nelle regolamentazioni che voi avete proposto e che sono state anche affossate per mano politica, ricordiamolo, di Italia Viva, in un certo senso chi ha una casa magari lasciata dai nonni eccetera eccetera non era il vero problema, no? Veniva esentato da alcune forme di limiti che volevate imporre. Sì, questa regolamentazione a livello nazionale che era stata proposta da un deputato del Partito Democratico, poi affossata, che ci prevedeva appunto una distinzione fra la logica imprenditoriale e la logica invece occasionale dietro le piattaforme, e questo criterio era stato individuato nei tre alloggi, nei famosi tre alloggi da mettere a disposizione sulla piattaforma. Ora questa legge non c'è più, è stata affossata, e si stava discutendo poco prima dell'emergenza coronavirus di una nuova legge. Circolava addirittura una bozza di decreto del ministro Franceschini, ora però con l'emergenza questa cosa ovviamente è venuta un po' a mancare, il dibattito pubblico anche che si era creato è venuto meno. Credo che però, nonostante il fatto che penso sia giusto che si parli dell'emergenza sanitaria e che si capisca in che modo affrontarla, però fa emergere anche delle situazioni, delle contraddizioni sulla sanità pubblica, sul tema dell'abitare, sul tema del turismo, sui grandi temi economici che in qualche modo dobbiamo saper sfruttare. Anche chi come me fa parte di un comitato, ne vorremmo poter sfruttare i temi sollevati in questo periodo e fare in modo di proporre una società in cui l'emergenza non mandi tutto nel panico e non lasci persone a casa senza lavoro o senza abitazione. Sì, immagino che in questi momenti di emergenza ci siano molti proprietari o piccoli proprietari che rimpiangano di non aver preso degli inquilini, degli studenti, delle famiglie invece che dei turisti, visto che il turismo è fermo. E per questo, allargando la discussione, penso che questa emergenza metta in evidenza anche il modo di intendere la città, no? Come città a misura di turista, di city user, si dice, oppure a misura di cittadino. Esattamente questo. Il punto è che sicuramente adesso questi piccoli proprietari staranno rimpiangendo di non aver preso studenti o magari comunque affitti, di non aver fatto affitti a lungo periodo. Ora il punto è che insomma l'emergenza in qualche modo spero finisca, spero si risolva tutto per il meglio. Dopodiché io sono convinto che si ritornerà di nuovo alla retorica, alla sana retorica del turismo, che già adesso stiamo vedendo messa in atto un po' da tutte le forze politiche, no? Dicendo risolviamo il Made in Italy, venite in Italia, l'Italia è un paese sicuro. Potrebbe essere anche così, il punto è che dobbiamo fare in modo che l'Italia sia un paese sicuro a prescindere dall'emergenza sanitaria, sia un paese sicuro per chi lavora, per chi vuole viverci, per chi insomma pone delle basi di vita all'interno delle nostre città. E per Bologna vale lo stesso ragionamento, quindi adesso bisognerà fare in modo che questa emergenza non butti nel panico la città e che insomma si risolvi in maniera molto più forte e che sappia appunto garantire le tutele di welfare, di lavoro, di abitazione per tutti.